Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Caro figlio 119. Fois 48. Andate. È scritto? Devi scrivere. Ghinelli 16. Piperno 126. Trevi 124. Due schede bianche. Con l'annuncio finale di Edoardo Nesi, vincitore dell'anno scorso e come da tradizione presidente del seggio, Alessandro Piperno è stato proclamato vincitore del premio Strega 2012. Ha ottenuto 126 preferenze dai 400 cosiddetti amici della domenica, persone del mondo della cultura che costituiscono la giuria, ai quali si aggiungono 60 lettori forti. Da giorni si parlava di un testa a testa fra Piperno e Trevi, con Caro Figlio come terzo incomodo. Per tutto lo spoglio parziale delle schede, i risultati vengono dati ogni 50 voti, era stato quasi sempre in testa Emanuele Trevi. Poi il colpo di scena con i 50 voti finali che hanno incoronato Piperno, seppur con soli 2 voti di vantaggio. Così Piperno dopo la proclamazione. C'è stato un certo punto che ero sicuro di aver perso. Non ho altre cose se non metafore calcistiche, cioè come perdere 3-0 e vincere 4-3 all'ultimo secondo, anzi al quarto minuto di recupero. Veramente una straordinaria emozione, non immaginavo. Che cosa cambierà adesso nella tua vita con questo Strega? Credo sostanzialmente niente, come dire, credo che di essermi guadagnato, come dire, il diritto a starmene un po' per conto mio. Io non sono una persona molto che ama molto andare in giro, promuovere il proprio libro, e diciamo che questa è una promozione talmente gigantesca che insomma, che ci pensa lo Strega per me, io posso stare a casa. In puro stile Piperno, uno scrittore riservato che non ama le luci della ribalta, uno scrittore che non frequenta gli ambienti letterari, non ama rilasciare interviste e questo gli ha dato la fama di antipatico, che lui commenta così. Tendenzialmente non amo molto frequentare gli ambienti letterari, conosco troppo bene i miei sentimenti, che sono dei sentimenti complessi nei confronti dei miei colleghi, che mescolano risentimento a complesso di superiorità. Li conosco talmente bene da sapere che gli stessi sentimenti evidentemente albergano nei loro cuori, quindi preferisco per frequentare persone, diciamo, alternative a quell'ambiente lì. Può essere che questa cosa qui abbia creato, come dire, dei misunderstanding nel corso della mia, peraltro breve carriera. Una cosa è certa, io non amo l'incontro pubblico in nessuna sua forma, perché lo considero sempre estremamente finto ed ipocrita. Insomma, credo che il problema che c'è un po' la narrativa, non solo nel nostro paese, ma come ho visto un po' ovunque, è il fatto che si prende troppo seriamente quello che dicono gli scrittori e poco seriamente quello che scrivono, insomma. Ma tornando alla serata al Ninfeo di Villa Giulia a Roma, dicevamo che Trevi era dato per favorito. Un'atmosfera che lo scrittore romano, autore di un romanzo memoir su Pasolini, ha vissuto così. Tutto bene, mi sembra che c'è un sacco di gente, c'è un po' di fresco, quindi va benissimo. Che cosa ne pensi dei tuoi concorrenti? Sono 4 libri che ognuno per la sua, per il tipo, insomma, di destino che si sono dati come scrittori, hanno una loro forza, ad un certo punto mi sono incuriosito e li ho letti. Devo dire che nessuno dei 4 l'ho trovato indegno di una finale dello Strega o di avere un buon successo di pubblico. Grande fair play dunque da parte di Trevi, che soprattutto ha avuto modo di apprezzare la mascotte della Cinquina, Lorenza Ghinelli. Ma a questo punto riepiloghiamo la classifica finale. Al primo posto Piperno con Inseparabili, il fuoco amico dei ricordi, Mondadori, e la seconda parte di un dittico, il romanzo precedente si intitolava Persecuzione, e la storia della famiglia Pontecorvo. In particolar modo nella prima parte si segue la storia del capofamiglia, Leo, accusato di aver molestato sessualmente la fidanzatina di uno dei 2 figli. In quest'ultimo romanzo, premiato appunto con lo Strega, l'attenzione è concentrata sul rapporto dei 2 fratelli Pontecorvo, Filippo e Samuel, uniti da piccoli in concorrenza da grandi. Al secondo posto Emanuele Trevi con Qualcosa di scritto, pubblicato da Ponte alle Grazie, che fa parte del gruppo James. Si è discusso molto di questo libro perché qualcuno lo classifica come un saggio su Pasolini. In realtà è un mix fra saggio, romanzo e memoir. Trevi racconta la sua esperienza personale da giovane nella Fondazione Pasolini, dove aveva a che fare con l'isterica Laura Betti, custode dell'opera pasoliniana. Da qui il racconto delle vessazioni, ma anche della scoperta del genio di Pasolini, soprattutto con l'opera postuma Petrolio. Un terzo ottimo posto per Gianrico Carofiglio con Il silenzio dell'onda, Rizzoli. Un terzo posto che però brucia per l'autore barese, visto che ha avuto soli 7 voti in meno del vincitore. Protagonista del romanzo è un carabiniere in congedo che per anni aveva fatto l'infiltrato perdendo il senso della sua identità. Si ricostruisce la sua storia attraverso i racconti che lui stesso fa al suo psicoterapeuta. Al quarto posto Marcello Fois con Nel tempo di mezzo e Einaudi, 48 voti. Anche per Fois la seconda puntata di un altro romanzo, una saga familiare ambientata in Sardegna. In questo secondo romanzo il protagonista è un uomo che torna appunto in Sardegna alla ricerca della sua vera identità. Fois non ha vinto lo Strega, ma potrà consolarsi con il Campiello, visto che è finalista anche nell'altro premio letterario che verrà consegnato il 1 settembre a Venezia. Infine Lorenza Ghinelli, la mascotte di questa cinquina strega con La colpa di Newton & Compton, ha incassato soli 16 voti. È evidente che chi aveva votato per lei in cinquina ha puntato su un altro autore. Con questo secondo romanzo la giovane scrittrice, che l'anno scorso fu un caso editoriale con Il divoratore, torna a parlare di bambini e ragazzi che devono superare un trauma. La parola d'ordine della Ghinelli è resilienza, ossia la capacità di superare il dolore e uscirne rafforzato, una parola che si è anche fatta tatuare su un braccio. A questo punto è d'obbligo un giro fra gli amici della domenica, a iniziare da Dacia Maraini. Un premio come lo Strega può aiutare a incentivare la lettura? Io penso di sì. Sì, sa cos'è? Che in un paese dove si legge poco, i premi servono a rendere visibili i libri, purtroppo. Non dovrebbe essere così, ma spesso è così. E cosa può portare il premio Strega ad uno scrittore? Risponde Francesco Piccolo, scrittore e autore televisivo, una delle penne più ironiche che abbiamo in Italia. Io credo che il premio Strega rimanga comunque il premio di maggiore visibilità popolare. Questo è una cosa che è molto importante, forse non significa nulla dal punto di vista del proprio percorso di scrittura, però significa tantissimo per il fatto di essere conosciuti, di essere letti. Essere letti significa poter essere amati nella propria scrittura e quindi, non so, recuperare i libri che si sono scritti o essere seguiti per i libri che si scriveranno. La serata dello Strega è una serata di cultura, ma anche di pettegolezzi e di invidie fra autori. C'è chi la prende ironicamente, come lo scrittore torinese Luca Bianchini. Luca Bianchini, ti piace questa cinquina dello Strega? No, perché non ci sono io e quindi per forza poi ti farò Piperno, perché fa parte della mia casa editrice. Solo per scuderia? No. Poi lui è molto bravo ed è molto ambizioso, che è importante nella letteratura oggi avere un po' di ambizione. E il suo libro, Il dittico, ce l'ha. Ti è piaciuto quindi il libro? Molto, soprattutto questo, Inseparabili. Speriamo bene. Dita incrociate. Un po', non solo. Insieme a tanti nomi e agli amici della domenica, le nostre giurate, Rita, Gloria, Marisa. Sono le ascoltatrici che hanno vinto l'iniziativa di Radio 24 del Premio Strega. Abbiamo chiesto di votare uno dei 12 candidati e spiegare il perché. Chi ha scritto le motivazioni più belle si è aggiudicato l'ingresso alla serata dello Strega. Ecco i loro commenti. Sicuramente una serata entusiasmante, molto, molto piacevole. Poi ho conosciuto anche il mio scrittore preferito dei 12 libri in gara, Giovanni Greco, che aveva scritto Malacrianza, ed è stato un vero piacere conoscerlo. Gloria, che te ne pare di questa serata allo Strega con Radio 24? Ma è stata una serata molto emozionante, perché è bello conoscere di persona magari scrittori che si conoscono solo come firma e vedere che sono appunto anche molto disponibili ed è appunto piacevole conoscerli di persona. Tu per chi avevi votato? Per Carofiglio. Mi è piaciuto molto Il silenzio dell'onda, l'ho trovato un romanzo molto stratificato, molto complesso, anche se molto accessibile. Diciamo che può essere letto da vari punti di vista e apprezzato sia andando più in profondità che apprezzando la trama in sé. Marisa, che te ne pare di questa serata allo Strega? Beh, un bagno di folla, una cosa a cui io non sono abituata ovviamente, e per cui dall'immersione nella lettura all'immersione in tutta questa, tra tutta sta gente, è una cosa un po' fuori dal comune. E ora la voce più caustica di Radio 24, Gianluca Nicoletti. È stata una serata esaltante soprattutto per le mignonette del Liquore Strega, che era l'unico conforto in una tristerrima rassegna di signore tenute in piedi con la formaldeide, se penso che la cultura italiana è in mano a questa massa di cadaveri putrefatti, devo dire mi conforto del fatto che sono un ignorante. Ma per fortuna la cultura italiana non è fatta solo di cadaveri putrefatti, come dice Nicoletti. Lo dimostra Gaia Manzini, giovane scrittrice fandango, entrata nei 12 dello Strega, ma non qualificata per la cinquina. A fine serata scherza così. Gaia Manzini, come ci si sente ad aver vinto lo Strega? Ma non me ne sono neanche accorta! Cioè, non riuscivo neanche a vedere il mio nome sul tabellone. Ma secondo te chi è che ha votato per te? Ma forse dei fantasmi? Comunque grazie, berrò la mia stessa salute. A chi lo dedichi? Alla mamma. Ed è tutto per questa puntata del Cacciatore di Libri dedicata al Premio Strega. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.